Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti, siamo numerosissimi, sono molto molto contenta e cosa dite? È un segnale che effettivamente i gruppi di lettura sono un po' anche la Mantova, è un pochino la patria dei gruppi di lettura, siamo molto emozionati perché grazie a Simonetta ed Elsa abbiamo Luigi Gavazzi e non vediamo l'ora di fare una bella chiacchierata tutti insieme. Io sono Sara Calciolari, rete bibliotecaria mantovana, c'è cioè il mio collega Davide Bassi. Sono contenta perché qua i gruppi di lettura sono rappresentatissimi e anche le bibliotecarie. E grazie anche a Biblioteca Baratta che ci ospita oggi tutti insieme. E niente, buon evento a tutti. Grazie, grazie. Sara. Grazie. Luigi, benvenuto. Cosa attesa? Continuavo a rimandare, finalmente ce l'abbiamo fatta a fare questo incontro come volevamo, in presenza, e ha senso anche con Le Voci dei Libri, il suo recente, Le Voci dei Lettori, il suo recente libro pubblicato da Bibliografica, ma in realtà è una trappola quella che ti abbiamo teso io, Elsa, e le bibliotecarie e i bibliotecari, perché cioè, da una parte abbiamo l'uomo qui, carne e ossa, che è riuscito a fare un gruppo di lettura sulla ricerca di Proust. Questo secondo me può andare in giro con una medaglietta, potresti metterti un qualcosa addosso per segnalarlo, quindi abbiamo questo, ma abbiamo anche appunto l'autore, il pensatore, io lo chiamo il filosofo dei gruppi di lettura, che in qualche modo appunto ha ragionato, ha scritto e ci ha dato veramente tanti spunti di riflessione su cosa significa trovarsi a parlare di libri e di lettura. Quindi la trappola è che in realtà noi ti vogliamo sfruttare, cioè qua ci siamo io e Elsa per impedirti di fuggire, capisci? Hanno scelto quelle un po' più così robuste, e poi lì nel pubblico invece ci sono appunto tutti questi bibliotecari e bibliotecari e conduttori anche, perché ci sono anche degli eroici domatori di gruppi di lettura che lo fanno anche volontariamente, che ci sono persone così, perversioni, che così, eccetera, e qua ce n'è qualcuno, oltre naturalmente alle editrici e lettori. Quindi l'idea di questo incontro, come è stato scritto anche a loro, è proprio che avete, è un gruppo di aiuto, va bene, quindi tutte le questioni che avete, difficoltà così, noi le riversiamo adesso su Luigi. Comincio io e dopo naturalmente do la parola ad Elsa e ti dico il mio cruccio, che ti ho già un po', mi sono già un po' sfogata prima quando abbiamo preso il caffè insieme, non sono uscita. Sapete come succede al gruppo di lettura? Prima ancora di arrivare al gruppo di lettura uno comincia già a dire tutte le sue cose. Io ho fatto lo stesso, così ho cominciato a dirgli questa mia ansia del fatto che a volte tu guardi tanto, come dici, che mi ha molto confortato la voce dei lettori, tu dici se devo scegliere un libro per la lettura condivisa ci deve essere un minimo di valore letterario, quindi la narrativa di comfort uno se la legge tranquillamente, ma magari il gruppo di lettura cerchiamo un minimo, senza delle cose difficilissime, ma avere anche, perché così si alimenta la discussione. E però devo dire che ultimamente ricevo spesso delle lamentele, è un libro triste, so, tutti i libri sono tristi, cioè quelli di, la maggior parte dei libri sono drammatici, questo purtroppo è così, un libro ma un po' la stile un po' faticoso, ma non è cronologico, le voci alternate, un po' complicato, l'ambientazione, vedi la Elena che mi guarda, è così, la scrittura, ma adesso l'ultima cosa che mi hanno detto è sono sempre ambientati in altri paesi che non conosco e quindi non mi oriento bene in questi altri, ma come, dovrebbe essere un vantaggio, no? Che andiamo a visitare dei posti, però così, e quindi dice, ma invece una bella storia d'amore, così, un bel, così, cioè, e leggiamo quella lì. E quindi insomma volevo dirti che così, chiedere l'aiuto a te, Luigi. Ma allora, è acceso? È acceso? No. Adesso? No, no. È acceso. È acceso. No, intanto vi ringrazio, ringrazio tutti per essere qua, ringrazio Simonetta, Elisa e tutti i bibliotecari. Ovviamente siete troppo buoni, io non ho fatto altro che in questi anni che guardare cosa succede nei gruppi di lettura, parlare con i lettori, con i conduttori, estrarre delle idee anche da qualche autore e provare a scrivere dei libri. Filosofi. E quindi, insomma, io sono debitore di tutti, di tutto questo movimento bellissimo che c'è in Italia, e non solo dei gruppi di lettura. Quindi, diciamo, il mio è più che altro un lavoro di osservazione. E quello che diceva adesso Simonetta è parte di questa osservazione. Cioè, sicuramente, anzi, forse io sono proprio partito da quello. Ci sono dei momenti in cui si esce dalla discussione del gruppo di lettura un po' delusi, no? Perché è stata una discussione scontata, un po' piatta, oppure a me una volta è capitato che una lettrice mi dicesse che secondo lei La montagna incantata era un romanzo non riuscito, e, senza motivare granché. Il che poi mi ha spinto a scegliere la recherche, perché... perché volevo vedere se a quel punto, dopo La montagna incantata, ci fosse il coraggio di... Non che non si possa criticare un libro, ovviamente, ma su questo siamo tutti d'accordo. Il punto è che andrebbe fatto articolandolo un po' il discorso. E questo credo sia il punto decisivo rispetto a quanto diceva Simonetta. Io credo che tutti i libri possano essere letti in un gruppo di lettura, dal più semplice al più ricco. Non tanto complicato, ma complesso, ricco, insomma. Il punto è come poi sia, come ciascun lettore e lettrice lo legge, e soprattutto come è disposto a raccontare questa sua lettura, quanto è disposto a vedere quella che Cercas, che io ho citato a un certo punto nel libro, chiama i punti ciechi, le ambiguità, le insicurezze del narratore stesso, perché ci sono alcuni passaggi, soprattutto nei grandi libri, che non sono definiti una volta per tutte, no? Ci sono libri che potremmo leggere 20, 30, 40 volte a distanza di anni, e probabilmente ci vedremmo dei nuovi punti ciechi, delle nuove ambiguità. Alcune le risolveremmo e altre le troveremo, le scopriremo di nuove. Quindi, per provare a rispondere, io credo che insistere sulla qualità del libro faciliti, oltre che rendere la lettura più bella, ovviamente, ma facilita anche la discussione, quindi il ruolo del conduttore, perché è più facile trovare delle curve, dei punti dove rallentare, dove invitare i lettori a provare ad avvicinare la lettura, quella che io nel libro chiamo la lettura ravvicinata, che è un modo di leggere, semplicemente rallentando un po', non andando a cercare subito un giudizio o andando a cercare subito come finisce la storia, ma provando anche a limitarsi a mettere a fuoco una o due pagine e provare a vedere cosa succede mettendo a fuoco, perché probabilmente scopriremo delle cose che non abbiamo scoperto a una lettura veloce, ma questo è ovvio. Ma soprattutto scopriremo, per esempio, che per esempio ci sono due o tre voci discordanti dentro il libro, cioè un narratore più o meno presente che ci suggerisce qualcosa, ci sono dei personaggi che magari non sono d'accordo con quel qualcosa, oppure dei personaggi che si rivelano ed altri che si nascondono. Insomma, è proprio un gioco linguistico quello che fa il gruppo di lettura, e provare a farlo in maniera più raffinata, attenta, anche rischiosa, mettendo un po' in gioco la propria capacità di giudizio, è il modo per aumentare la qualità della discussione. Quindi io credo che si può leggere anche un libro molto semplice, magari per farlo a pezzi, per decostruirlo, per cercare di capire perché piace tanto a un certo tipo di lettore e perché a noi magari non piace. Quindi possiamo dire che scegliere un libro di qualità è sempre meglio, perché ci dà più soddisfazione e ci rende la discussione più ricca. Però si può fare una cosa... si può fare un buon gioco linguistico, cioè una bella discussione, bella elaborata, anche con un libro più scadente, magari provando a smontarlo, a capire perché quel certo personaggio piace tanto a un certo tipo di lettore, di lettrice, e provare a fare le domande riferite a quello. Una cosa che io in questo caso consiglio è, se vediamo che la discussione nei nostri gruppi è affaticata, ripetitiva, proviamo a proporre questo tipo di attività. Cioè decidiamo che la discussione di quella sera, di quel pomeriggio, invece che partire da il giudizio generale sulla lettura fatta, mi è piaciuta, non mi è piaciuta, scritta bene, prendiamo una pagina del romanzo, del racconto, e la proviamo a leggere insieme, ad alta voce, e cercare di smontarla un po', che non significa fare una lettura o una discussione, diciamo così, dottorale o professorale, può essere anche incentrata sulle emozioni che suscita quella pagina lì, magari c'è un dialogo intenso e cercare di capire che emozioni ci ha suggerito, ci ha suscitato, dando un nome a queste emozioni, ci ha fatto arrabbiare, ci ha fatto indignare, ci ha fatto innamorare, ci ha fatto pensare a quando ero bambino e mi ricordo che succedeva una certa cosa al tramonto. Insomma, non è detto che fare una lettura ravvicinata, una discussione ravvicinata, significhi assumere, salire in cattedra e fare appunto i professori o i recensori l'analisi testuale. Può essere anche semplicemente incentrata sugli aspetti emotivi, però ci obbliga e obbliga i lettori ad avere piacere della lettura, perché alla fine il risultato di tutto ciò deve essere aumentare il nostro piacere della lettura e condividerlo con gli altri, intessere quelle relazioni che sono fondate su un'esperienza importante come la lettura. E quindi è un peccato perdere un'occasione come il fatto che ci incontriamo, magari alla sera siamo stanchi, decidiamo di metterci anche un po' in gioco nella nostra emotività, nel nostro vissuto, e avere delle discussioni che sono deludenti. Quindi è un po' un modo per rischiare. Quindi io credo che anche il conduttore, le conduttrici dei gruppi di lettura a un certo punto devono prendere un po' l'iniziativa e provare a proporre queste cose, che mi rendo conto che sono anche abbastanza difficili da far digerire certe volte. Poi in realtà anche nell'altro tuo libro sui gruppi di lettura, così, la cosa che io uso sempre molto confortante è che tu dici che c'è una grande discussione intorno alla scelta dei libri, ma la scelta del libro non è la cosa decisiva alla fine, la cosa decisiva è il dialogo, lo stare insieme tra persone. Quindi a volte davvero capita che magari c'è una scelta si risulta pessima, magari viene fuori una bellissima, una bellissima discussione. E anche nelle voci dei lettori sottolinei proprio questo esercizio di democrazia che è il gruppo di lettura, che a noi sembra di fare una serata al mese, un'ora, trovarci a parlare dei libri, e in realtà tu sottolinei come questo in realtà non è una cosa semplice, è una operazione molto complessa e di grande valore, che magari noi non diamo il valore giusto che ha, ma ce l'ha assolutamente. Sì, sì, io credo che davvero quando noi parliamo di democrazia proprio partecipativa, abbiamo nel gruppo di lettura un esempio clamoroso, perché ovviamente è volontario, è pubblico, perché quasi tutti i gruppi di lettura, a parte quelli che si riuniscono nelle case private, sono degli spazi pubblici a tutti gli effetti. Cioè se ci si riunisce in una biblioteca, è uno spazio aperto a tutti, dove chiunque può entrare per definizione, anche se ci sono dei lettori che magari storcono il naso quando arriva qualcuno di nuovo. A me è successo, però insomma, diciamo che dovrebbe essere una delle caratteristiche decisive del gruppo di lettura il fatto di essere uno spazio aperto, uno spazio pubblico dove ciascuno mette a disposizione degli altri intanto quello che ha letto e quello che ne ha appreso, ma anche e soprattutto, direi io, la parte emozionale di questa lettura, che spesso mette in gioco se stessi e esercita dentro questo spazio pubblico la possibilità di esprimersi tutti, di garantire la pluralità di questa espressione, perché tutti i lettori e le lettrici che partecipano devono e hanno diritto di non solo di espressione, che è abbastanza ovvio, ma anche di esprimere la propria prospettiva sulla lettura, che questa è una delle garanzie che il gruppo di lettura offre, che è un esempio importante di partecipazione civile. Io nel libro mi sono spinto a dire che i gruppi di lettura ricordano un po' le rappresentazioni artistiche, quegli happening artistici che avvengono nei luoghi pubblici, perché c'è una partecipazione diretta del pubblico. Gli altri possono vedere ed è un valore in sé quello che avviene lì, cioè quel momento lì è importante di per sé, è un'espressione di democrazia e di partecipazione, cioè ci fa sentire parte di una comunità in maniera molto attiva, e quindi anche quello è un po' un miracolo, no? Elsa, confessa, ti passi il microfono, ti passo questo. Tocca a te, Elsa. Sì, mi confesso subito, esatto. Perché avete appunto detto che è vero, la scelta del libro forse non è la cosa più importante, ma in realtà da pagina 41 ho trovato la risposta. Quindi sull'angolo cieco da dare a dei lettori, perché una volta mi è capitato che mi prendessero veramente da parte dopo la discussione dicendomi: ma perché ci hai dato questo libro, che siamo stati malissimo, il libro è bello, tu hai detto è stata la Simonetta, no, lì non sapevo cosa dire, perché se dico che è stata Simonetta poi la chiamano e smentisce subito, quindi è finito il giro. In realtà non ho avuto la risposta pronta, il libro era La dimensione oscura di Nana Fernandez, quindi avevano anche un po' ragione, giustamente. Però dire appunto che esiste questo angolo cieco, infatti secondo me è un bel pezzo poi da leggere anche nei gruppi di lettura per raccontare cosa succede quando si sceglie un libro. Però la mia domanda in realtà era diversa, ecco, volevo fare la confessione, come ha detto Simo, partendo da un articolo che ho letto, che hai scritto e che poi si ritrova anche qui, sul perché i gruppi devono ritornare in presenza. Quindi diciamo che la pandemia ha cambiato per un po' di tempo l'assetto dei gruppi di lettura, perché alla fine la consuetudine era ritrovarsi tutti insieme, come ho già detto, in uno stesso posto, guardarsi e insomma stare insieme fisicamente, ecco. Però forse, questa è una domanda che ti faccio anche perché l'ho testata io in uno dei gruppi di lettura che seguo, ha prodotto in realtà magari un'opportunità in più, come dici anche tu nel libro, per chi non può seguire, non può essere fisicamente in quel momento. E poi ho scoperto anche che c'è un gruppo di lettura che si chiama Sconfini, sono dei ragazzi che vivono in posti diversi ma che si ritrovano online, altrimenti non sarebbe possibile. Quindi volevo chiederti ecco questo. Ma questo è, diciamo, un aspetto davvero interessante e per certi versi decisivo anche per il futuro, credo, di questa esperienza dei gruppi di lettura. Io per scrivere quelle cose mi sono un po' basato su un'esperienza diretta del gruppo che seguo io, che ha avuto proprio questo passaggio. A un certo punto è scoppiata la pandemia, ci siamo fermati per un paio di mesi, poi io e il bibliotecario, insomma, di riferimento abbiamo deciso di provare ad andare online, cosa che non avevamo mai fatto ovviamente, perché era per definizione un gruppo in presenza che attirava molte persone, anche con un discreto andirivieni, cioè persone che entravano e uscivano, però erano tutte della zona, diciamo, di Milano, nord Milano. Invece in questo modo abbiamo pensato di provare ad andare online e al primo giro sono venute le stesse persone. Poi però attraverso il blog, attraverso i social, i gruppi Facebook, il passaparola, è diventato un gruppo davvero frequentato da persone di varie parti d'Italia, ma addirittura abbiamo avuto una persona che dagli Stati Uniti ci ha seguito per un po'. È addirittura una signora dalla Bielorussia, una signora che studiava italiano e aveva intercettato da qualche parte in rete questa opportunità e ha partecipato a due o tre incontri del gruppo. Ecco, cosa abbiamo ricavato da questa esperienza? Che il gruppo online estende all'infinito, su tutto il pianeta, i confini possibili del gruppo di lettura, che è sempre stata un'idea, quasi un'utopia per me, perché l'idea che il gruppo di lettura sia davvero uno spazio pubblico coincide con l'idea che sia aperto a tutto, a tutti e sempre, e che quindi il fatto di abbattere, cioè di superare questa barriera spaziale, mi sembrava una cosa bellissima, magica, che è andata avanti per i due anni in cui le biblioteche sono state chiuse più o meno e che sta continuando adesso, anche se poi abbiamo deciso di tornare anche in presenza. Adesso abbiamo una versione mista. che è molto faticosa. Però cioè, questa esperienza insegna due cose, cioè insegna tante cose. Le due principali sono appunto che superi la barriera fisica, lo spazio, e quindi accogli più persone. B, che però la relazione, quella che è molto importante, cioè lo scambio di idee, ma anche proprio la vicinanza fisica, lo stare intorno a un tavolo, seduti sulle sedie, insomma, quello che sappiamo essere anche tutta la parte, diciamo, fisica di relazione, online si perde completamente e cambia anche un po' tutta la dinamica della discussione, perché i turni devono essere ben molto più chiariti, è più difficile, per esempio, tollerare le interruzioni online, perché se siamo intorno a un tavolo qui e io sto parlando e lui mi interrompe, se non lo fa in maniera scortese, se non lo fa ogni 3 minuti, diventa parte della discussione. Online è tutto molto più difficile, cioè discrepanza di tempo fra quando uno parla e quando si sente. C'è il fatto che c'è la manina da alzare, che non tutti lo sanno usare a modo. Per cui quello che si nota è che la discussione diventa meno dialogica, diciamo, sono più una serie di interventi che vengono fatti in maniera rispettosa, ovviamente, degli altri, che però hanno meno quello scambio che specialmente nel secondo giro degli interventi di discussione spesso avviene in gruppi di lettura, perché se noi prendiamo la struttura della discussione, si ha in genere un primo giro in cui si sta belli ordinati, si segue un... Poi il secondo invece è quello dove però questo disordine è spesso anche quello da cui scaturiscono cose più interessanti, ecco. Per quello che ho notato io, online questa cosa qua si perde un po', è tutto molto più ordinato, ma tutto anche un po' più prevedibile, è anche più difficile che la gente si lasci un po' andare a considerazioni più personali, a digressioni, anzi le digressioni vengono tollerate meno in genere online. E poi c'è questo aspetto che non si vedono le reazioni delle facce delle persone visive. Quindi è difficile anche capire se ti stanno ancora ascoltando, eccetera, eccetera. Anche i toni, perché i toni, un problema, certo. Che a me piace molto anche ironizzare, è chiaro che però a volte se non vedi il viso, certo, magari prendo anche un po' in giro così, ma non capisci che è un'ironia. Non capisci, certo, mai che è un'ironia, sì. E quello chiaramente crea poi dei problemi. Sara, avevi ancora qualcosa? Ma magari facciamo un giro tra di loro, poi... C'è qualcuno che ha già delle questioni, anche non domande, però problemi, questioni già da mettere sul piatto, parlare con Luigi, anche disgrazie che gli sono accadute nelle tue, insomma, scherzo. Parte. Beh, qua tanto che pensate, ci sono un sacco di aiuti, quel bellissimo capitolo sull'ascolto e la delicatezza, sul fatto che tutti hanno chiaramente il diritto di dire la loro opinione, ma che anche qua c'è piccolo galateo, in ogni caso, è che la delicatezza è stata proprio una bella parola che hai usato per descrivere questa dinamica di ascolto e dialogo. Sì, allora, diciamo che quando noi parliamo di democrazia intendiamo un sacco di cose, però in uno spazio pubblico in cui sono coinvolti tanto i sentimenti, le emozioni, i vissuti delle persone, spesso anche in maniera dolorosa, perché ci sono dei romanzi, dei racconti che chiamano esperienze anche un po' dolorose, dei vissuti di chi l'ha letto, la delicatezza è fondamentale, perché sennò anche semplicemente dissentire dal giudizio dato da un lettore che ci ha messo molto se stesso, anche dissentire in maniera un po' rude può portare a un'offesa per quella persona che in quel momento, in quelle circostanze, è particolarmente sensibile. Quindi è quasi una sorta di regola fondamentale nel riconoscimento dell'altro, che noi, quando partecipiamo alla condivisione in un gruppo di lettura, diamo per assodata, perché se siamo qua e ci ascoltiamo abbiamo tutti gli stessi diritti di dire, di essere ascoltati, però se io continuo appunto a criticare gli altri, lo faccio in maniera non delicata, in maniera rude, è chiaro che diciamo, può essere un mio diritto dal punto di vista formale, ma è una violazione della sfera affettiva e che quindi non può avere, non può essere accettata. Secondo me quello è uno dei momenti in cui chi conduce, chi coordina deve avere la sensibilità fine di cogliere quelle, a volte, quelle indelicatezze che a volte non sono neanche troppo evidenti, però che si sta attenti, si coglie, e intervenire per evitare che si ripetano. Quello è un aspetto fondamentale, anche perché quella è una sorta di condizione che permette poi alla discussione di avere quella qualità che tutti ci aspettiamo, perché se i giudizi dissentono, io nel libro cito spesso Bakhtin che dice che è fondamentale il dialogo, che il dialogo dal suo punto di vista non è che alla fine ci mettiamo d'accordo su quello che abbiamo, manteniamo le nostre differenze, ma siamo semplicemente aperti a metterle in dubbio, perché io posso mantenere la mia idea che La Montagna Incantata sia un grande libro, ma se tu mi dici che non è riuscito e mi provi a spiegare perché, magari io ci posso anche ripensare, probabilmente non cambierò idea, però sono aperto a questa. In questo modo ciascuno dei partecipanti si trova un po' spiazzato rispetto a quando aveva iniziato. E io dico sempre che una buona discussione nel gruppo di lettura è un invito a rileggere il libro, no? Perché abbiamo letto, partiamo da un punto di vista, una prospettiva, e alla fine siamo disposti a dire che c'è anche un'altra prospettiva, però tutto ciò deve avere come cornice questo rispetto per i pareri degli altri, ma anche per le sensibilità degli altri. Quindi l'argomento della delicatezza credo sia decisivo da questo punto di vista. Assolutamente. Volevo dire delicatezza non solo fra i lettori, ma il conduttore fondamentalmente deve essere quello che stia attento, che non sia mai aggressivo o poco delicato, cioè è accettare fondamentalmente il conduttore deve essere la prima persona che deve rispettare qua. Diciamo che io do sempre per scontato, anche se probabilmente non è così scontato, che chi conduce abbia un po' assimilato queste però sì, è decisivo questo, cioè deve essere sensibile, capire cosa sta succedendo, ma anche evitare di fare il prepotente, o anche semplicemente di ignorare alcune sfumature che emergono dalla discussione, perché ci sono dei conduttori che sono sicuramente molto orientati a una lettura già fatta del libro, che magari tendono a ignorare alcune riflessioni che arrivano dai lettori e che sono un po' non sono sintonizzate con le sue, quindi magari non le critica, però tende a un po' a lasciarle perdere, non le riprende. E questo rende la discussione anche meno interessante, insomma. Che l'ultima volta ero impedito di considerare il libro di Missiroli, adesso si è vendicata. Si è vendicata in pubblico. Scherzo. Io l'ho detto proprio perché almeno la tua capacità di essere così inclusiva. Te l'ho detto più volte. Lo so che ti facciamo scherzare, ti facciamo arrabbiare. Vai Patrizia. Ho apprezzato anche moltissimo la parte della delicatezza, anche nel senso del non cercare di obbligare la gente a parlare, perché come dicevate prima ci sono dei temi che toccano molto profondamente, per cui qualcuno, e anche, mi pare di aver capito che anche la sua opinione, non forzare a leggere, nonostante sembri una contraddizione in termini, per cui se viene al gruppo di lettura e non ha letto il libro, allora cosa ci viene a fare? Però in realtà, secondo me, c'è un'abitudine, allora uno una domanda se la fa chiaramente, però ognuno sa i suoi vissuti, ognuno ha i suoi problemi. Invece mi è capitato in un gruppo che ci fosse un po' la recriminazione nei confronti di chi quella volta non ha finito il libro e dice anche stavolta l'ha finito. E questo mi dà un po' fastidio, perché secondo me è proprio una mancanza di sì, io allora l'idea di fondo è che nelle di cosiddette, cioè se il gruppo di lettura è uno spazio aperto di democrazia, bla bla bla, tutte le cose che abbiamo detto, di questi diritti qui fa parte anche il diritto di venire a ascoltare senza aver letto, addirittura di parlare senza aver letto, anche se diciamo così che espone ad alcuni momenti magari irritanti per gli altri, però se chi viene al gruppo e non ha letto ha il buon senso di fare domande invece che dare delle risposte che magari non può dare. Però a me è capitato per esempio di un lettore che si è presentato più di una volta in un certo periodo a questi gruppi senza mai aver letto il libro, che però faceva degli interventi in cui, attaccandosi alle cose che si stavano dicendo nella discussione, ricordava altre letture. Allora lui era abbastanza delicato da tenere brevi questi interventi e quindi era anche piacevole e alla fine risultava quasi una sorta di consiglio di lettura allargato, perché tesseva dei fili legandoli ad altre opere. È chiaro che se tutti partecipano al gruppo di lettura senza averlo letto, la situazione diventa un po' surreale, sarebbe magari interessante. Però io quando invito a partecipare al gruppo di lettura, anche online, come dicevamo prima, lo aggiungo sempre che possono partecipare tutti, ma veramente tutti, anche chi non ha letto il libro. E succede sempre che ci sia qualcuno che in genere lo fanno per assaggiare la situazione, per capire come si svolge, perché ci sono molte persone che hanno un po' di timore, no? Affacciarsi, ti chiedono quanto costa, se mi devo iscrivere, quanto tempo prima, queste cose qua. Io dico no, guarda, è aperto, è libero, eccetera. Anche per decidere se leggerlo alcuni. Esatto. Diventa un consiglio di lettura indiretto e poi molti la volta dopo invece si presentano avendolo letto il libro successivo, quindi è anche proprio un modo per farli entrare, far capire. E questo devo dire che sull'online, sulla videoconferenza, aiuta molto, perché chi partecipa senza averlo letto sta lì buonino, quasi non si nota, no? Mentre in presenza, a meno che non si metta dietro la colonna, comunque a un certo punto arriva il momento nella serata in cui tutti lo guardano, la guardano e si aspettano, dici qualcosa, chi sei, mentre online è più facile questa cosa. Però sì, io credo sia un aspetto fondamentale il diritto anche di partecipare a un gruppo senza leggerlo. Dopo succedono quelli che non l'hanno finito. Non ditemi come va a finire. Ah sì, quello è un punto. Io ti è sfuggito, adesso mi hai già detto. Dito. Sì, io ho un'amica, una lettrice che è ossessionata da questa idea dello spoiling, anche se gli dico senti, ma se leggiamo che so Anna Karenina, lo sanno tutti come va a finire, non può essere quello il problema, però no, io me lo voglio godere lo stesso, va bene. Quindi io credo che anche quello sia un po' un diritto, però è anche vero che se tu partecipi a una discussione devi accettare che gli altri a un certo punto ti dicano che finisce in quel modo, insomma. Sì sì, assolutamente, perché spesso le ultime pagine dicono moltissimo delle. Ah, sì. Sì, noi abbiamo fatto anche un esperimento, una volta abbiamo provato a fare degli incontri in corso di lettura, che è una roba a cui io tenevo molto come esperimento, che però poi alla fine non era piaciuto in modo particolare, e la maggior parte delle persone mi hanno detto che il fatto di non arrivare alla fine non dava quella visione complessiva, retrospettiva della storia, ma anche dei temi, no? Di come lo scrittore li stesse svolgendo, e che quindi c'erano questi incontri intermedi che erano un po' appesi, in cui diventavano ripetitivi. Quindi quelli sulle ultime pagine, cioè sul finale del libro, sicuramente aiuta la discussione, infatti è proprio quello che è. Sì sì, decisamente, decisamente. Io volevo dire una cosa, che una delle cose che mi è piaciuto di più libro è quando dici non ci interessano le sintesi, che poi è sì. E allora così mi viene un po' da sorridere, perché nel gruppo di lettura che da poco che sto seguendo c'è questa abitudine, io spero sempre che se ne dimentichi, ma si ricorda, c'è sempre qualcuno che dice non abbiamo danno il voto, danno 0 a 10, e poi vogliono fare la media, Cioè tu hai un gruppo di statistici, hai un gruppo di statistici tu, Elena, non so. Spero che sia diventino, ma niente, sempre uno. Però così no, mi veniva qua da sorridere, dico magari questa idea non ci interessa la sintesi pian piano, però la spiegherò, non so, farò un capito. Sì, no, perché poi, cioè in realtà uno poi il giudizio lo può anche dare. Il punto è quando è solo quello l'intervento, che è quello che succede spesso, no? Se l'esordio della discussione è il libro mi è piaciuto ma mette troppe virgole, è chiaro che o ragioniamo su come si mette la punteggiatura o se no la discussione rischia di finire lì, no? Oppure è scritto male, o come ancora prima io, come cos'è che hai citato la tua lettrice che parlava, diceva che era un libro... Scritto da un timino di un bambino dell'elementare che lei non ha tempo da perdere, quindi dopo 20 pagine la lascia. Questo tipo di esordio nella discussione, il problema è che condiziona anche tutti gli altri, no? Perché poi quello che succede spesso è che tutti gli altri o si dicono d'accordo con questo giudizio o contro, ma finisce che la discussione è tutta basata sulla sintesi, è bello, è brutto, è scritto bene, è scritto male, che... potevamo starcene a casa nostra, ci mandavamo un messaggio e finiva lì, non è quello il gruppo di lettura, insomma. Oppure quello che scrive su di WhatsApp, dove sei anche tu, che era terra alta, io a me non piacciono i gialli, io non lo leggerò, su vabbè, ma quello che ho detto, ho raccontato lui adesso del coso, era al Sciamani in terra straniera, gli alberi parlano arabo, cioè non è che fosse... un libro era un libro letterario, certo lo stile cioè poteva essere così, però no, ma anche adesso ho visto anche un gruppo di lettura dove dice ci vediamo così e poi una dice una ha scritto un libro stupendo, sono contenta che ci troviamo a parlarne solo così, e una ha scritto stupendo, non sono affatto d'accordo, libro orribile, così penso che non verrò. Io dentro di me ho detto speriamo che non ci vada, so già questa cosa qua ero già preoccupata per la povera bibliotecaria, che cioè, già dal gruppo WhatsApp c'era un'anteprima pesante. Sì, questo diciamo, è un passaggio fondamentale del nostro ragionamento. Io nel libro ho cercato di dire che l'inclusività del gruppo di lettura si basa su come organizziamo, su come gestiamo, su come funziona la discussione, non tanto sull'inclusività del libro. Cioè, un libro che vuole il bene del mondo non porta necessariamente a una discussione inclusiva, mentre il libro più... io arrivo a citare I Savi Anziani di Sion proprio apposta, perché è il libro più falso, è proprio il modello della fake news che ha scatenato pogrom anti-ebraici, però può essere l'oggetto di una discussione in un gruppo di lettura inclusivo, perché se ci mettiamo lì, cerchiamo di capire come funziona un libello antisemita e tutti dicono la propria, la discussione sarà una discussione efficace, ricca, inclusiva a partire da un libro che è il contrario dell'inclusività, ovviamente. Quindi la nostra attenzione quando creiamo e conduciamo e partecipiamo anche ai gruppi di lettura in quanto lettrici, lettori, e proprio sulla funzionalità, l'inclusività, la democraticità, la dialogicità della discussione. Per cui anche se non mi piacciono i gialli, se finisce lì allontano gli altri, ma se vengo e dico i gialli non mi piacciono, non capisco come a voi possiate piacere, perché a me il fatto che ci sia qualcuno che indaga su un omicidio mi mette ansia e mi viene in mente, si racconta una storia, magari con una digressione che a alcuni può sembrare fastidiosa, però è un modo per raccontarsi e per rendersi disponibile agli altri a quel dialogo lì. Quindi anche nel decidere di non leggere posso partecipare al dialogo, perché magari semplicemente racconto perché ho quell'ostilità lì nei confronti dei video. Magari la scopro anch'io, perché se io provo a interrogarmi perché non mi piacciono i gialli E quindi se io rendo gli altri partecipi di questo mio ragionamento, do un contributo a questa discussione, sì, e non allontano gli altri, sì, no? No, anche questo è molto interessante, perché col tempo anche un altro pensiero che mi è venuto, ma prima di tutto riguardo a me stessa, è che a volte ho delle reazioni quasi violente verso dei libri, e però questa è una lettura sempre, cioè vuol dire che la reazione così negativa dice qualcosa di me, non sono rimasta dentro, cioè non è un giudizio dire guarda, è un libro che secondo me vale abbastanza poco, così, ma ci sono dei libri che mi hanno veramente infastidito e ho cominciato a pensare a me stessa e poi condividere anche con i lettori dicendo ma se mi ha dato così fastidio, forse c'è, cioè ha fatto forse il suo lavoro questo libro, probabilmente è anche qualcosa che magari al momento non voglio neanche indagare ed è giusto, cioè, però mi è successo che dei lettori mi hanno detto hai ragione, ci ho ragionato e questa cosa del fastidio è probabilmente andato a toccare qualcosa che io magari in questo momento non voglio neanche indagare, certo, però sicuramente c'è stata una reazione non banale, cioè ha scatenato qualcosa. Sì, perché cioè, diciamo, tutte le emozioni hanno una coloritura che se ci mettiamo lì ad analizzare ci aiutano a capirci e quando poi ne parliamo con gli altri, intanto magari capiamo più di noi stessi, ma poi contribuiamo a questo dibattito, a questo dialogo in maniera costruttiva, anche se siamo contrari a quel libro lì, cioè il punto non è essere favorevoli, è che il libro sia piaciuto o meno, cioè è anche quello ovviamente il punto però è come lo argomento, è il fatto che, per tornare a quella citazione che avevo fatto all'inizio della lettrice che dice che La montagna incantata è un libro, un romanzo non riuscito, il punto non è quello, il punto è che se tu mi spieghi perché non sembra riuscito, perché che so, i sanatori dove si parla di malati diciamo quasi terminali mi mettono ansia, allora tu hai dato degli elementi emotivi, di coloritura emotiva a questa tua, e quindi hai contribuito a, se mi dici solo che è un libro che non è riuscito, diciamo, oltre che metterti un po' in ridicolo perché stai parlando di Thomas Mann, ma soprattutto non hai dato nessun contributo agli altri, insomma, non hai partecipato, non ti sei messo in relazione con gli altri, è un modo per chiudere la relazione quella, no? C'è Marta. Sì, però secondo me stiamo parlando di due cose diverse, cioè il fatto che Simonetta dica a me questo libro ha suscitato qualcosa di negativo e su questo ci ragiono, però partire dicendo a me il libro già non mi piace, quindi io non lo leggo, sono due cose completamente diverse. E il fatto di partecipare a un gruppo di lettura vuol dire provare a esplorare quei generi letterari che di solito ti fanno schifo, però lo propongono, vediamo se mi può dare qualcosa in più. A me, oltre ai libri gialli che mi piacciono, gli storici di rosa mi piacciono, io ho sentito anche ragazzi, io lavoro spesso con ragazzi, che dicono la copertina non mi piaceva, io non l'ho neanche aperto. Dopo quattro volte che mi dice la copertina non mi piaceva e non l'ha neanche aperta, l'ho presa da una parte e ne ho parlato con lei, perché è vero che il libro di lettura è aperto a tutti, puoi venire quando vuoi tu, specialmente con i ragazzi, non devono prenderlo come un compito, ma proprio per stare insieme, fare il gruppo, conoscere anche i ragazzi. Però la quarta volta che mi dici io non l'ho letto, poi è una lettrice forte, mi legge molto, non l'ho letto perché non piaceva il ruolo da moderatore viene messo alla prova. Ah no, certo. Tu hai fatto delle sovracoperte. Marta, hai sovracoperte. La definizione ti piaceva di più, sì. A sorpresa tu hai. No, sicuramente in questo caso è un caso limite che mette proprio alla prova l'esistenza stessa del gruppo. Perché. E poi, vabbè, probabilmente ci dice anche tanto del tipo di lettrice o di lettore, perché se io partecipo per 4-5 volte a un gruppo di lettori e ogni volta dico che non ho neanche letto, forse sicuramente sto cercando di dirti qualcosa, non so che cosa, ma qualcosa, facciamoci delle domande. Però forse ho anche, cioè, proprio un problema mio di relazione con questa condizione, perché non è che me ne sono andato, non mi sono più presentato, no, non mi interessano i libri che leggete, cambio gruppo di lettura, non leggo per i fatti miei, no, continuo a venire, continuo a dire che i libri che scegliete non mi piacciono, diciamo, qui siamo probabilmente proprio in un'area di dove forse la psicologia è più utile della E comunque è interessante, perché poi anche gli adulti spesso fanno questo tipo. Io avevo una lettrice che poi dopo un po' si è persa, che lei li leggeva libri, però costantemente diceva che i libri che legge lei sono più belli di quelli che vengono scelti lì, che credo sia un classico, no? E, cioè il suo personaggio ormai, perché una delle cose che abbiamo scoperto in gruppi di lettura è che ciascuno poi dopo un po' diventa una specie di attore, no? Attore, sono quel tipo di lettore lì e ogni volta che vengo faccio un po' quella parte lì. E lei era questa parte qua che appunto conosciamo più o meno tutti, quella che dice che i libri che sceglie Simonetta sono sempre più brutti di quelli che scelgo io, no? E che quindi io vengo lo stesso perché vi faccio questo regalo della mia presenza. Però sappiate che ci sono i libri più belli di questi. E persino quando l'autore mi piace, il libro che ha scelto Simonetta di quell'autore è meno bello di quello che ho già letto io e che voi ancora non conoscete. Però anche queste sono proprio delle figure che sono quasi divertenti quando si fanno arrabbiare e che dicono molto sul tipo di ambiente, ma anche poi sui singoli lettori. Uno che proprio è il finale. Sì, cioè. Ci sono tutti dei vari, è vero, dei vari assolutamente persone. Elsa, avevi qualcos'altro? No, volevo dirti, Marta, che io ho una lettrice che mette le copertine su tutti i libri. Bellissima carta fiorentina, devo dire, e li restituisce tutte le volte. No, tienilo così almeno ne copri uno e siamo a posto. Però insomma c'è anche questa perversione. Sul discorso anche di gruppo, tu esordito, stiamo dicendo gruppo di aiuto, è vero, perché no, secondo me a tutti è venuta la crisi di chi conduce il gruppo di lettura. E quindi mi dico, il confronto anche con altri che conducono gruppi di lettura, cioè noi abbiamo la fortuna di avere Simonetta ed è chiaro, ma dopo un po' anche lei non ce la fa più, ha bisogno anche lei di qualcuno per disintossicarsi. Questo che ti abbiamo chiamato. Però mi è capitato di questa collega che mi ha detto, non so, il mio gruppo di lettura ha qualcosa che non va. Poi ci ho pensato, no, forse sono io. Anche per quei momenti in cui, penso che a qualcuno sia capitato, a me sì, un anno non proprio, come dire, centratissimo, insomma alla fine dell'anno il gruppo ha detto ma non mi sono piaciuti tutti, e insomma l'anno scorso era più bello, ecco, quindi ecco. Quando arriva questo momento di crisi? Ma secondo me ci sono due possibilità, anzi anche tre. La prima è che cambi il conduttore. No, ma io non sto scherzando, nel senso che puoi mantenere. Potremmo fare gli scambi. Puoi mantenere il ruolo di conduttrice, cioè di coordinamento, però magari decidendo che a uno dei lettori, che può essere a scelta, cioè volontario, no? Si assuma un po' il lavoro di coordinare un po' la discussione, per esempio. Noi ogni tanto lo facciamo, per esempio noi i libri li scegliamo alla fine della riunione su un certo libro, si dedicano 10-15 minuti a proposte per il prossimo libro, è un gruppo, come avete capito, dedicato più o meno ai classici, no? Anche se poi è un concetto di classico, ci sono cose del Novecento ma anche del XXI secolo, quindi i parametri più o meno li conosciamo, non deve essere troppo lungo perché sennò non riusciamo a leggerlo tutto, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che ci sono delle proposte che vengono raccolte fra i lettori. Poi si vota, si sceglie votando. Il libro che vince incarica chi l'ha proposto la volta successiva, quasi automaticamente, di fare un po' da presentatore, coordinatore, coordinatrice della discussione. Quindi, diciamo, i coordinatori ufficiali si mettono un attimo in disparte, tranne intervenire appunto quando ci sono violazioni palesi, e provano a lasciare alla lettrice o al lettore il ruolo di stimolatore, di guida della discussione, eccetera. E in quel modo cosa succede? Che cambia un po' il ritmo della discussione rispetto alla volta prima, perché quello che dici tu è vero, cioè nel senso io posso avere tantissime idee, però a un certo punto mi ripeto, ci ripetiamo, non è che possiamo sempre, e poi non tutti i libri magari sono in perfetta sintonia con il nostro modo di leggere, Quindi in questo modo creiamo un po' di dinamicità diversa e gli stessi lettori si sentono un po' più coinvolti. Poi non è che tutti i gruppi credo siano adatti a questo tipo di operazione, però in certi casi funziona. Altre volte, questo per aggiungere, il fatto di scegliere, far scegliere i libri ai lettori spesso anche suscita un po' di questo interesse, perché è come se la discussione iniziasse ancora prima di aver letto il libro, perché se io dico la prossima volta discutiamo di questo libro e alla fine portiamo le proposte per il prossimo incontro, il prossimo giro, è come se alcuni lettori si preparassero un po', perché non dicono solo leggiamo questo libro, appunto, dicono leggiamo questo libro perché credo che possa interessarvi, perché ha questa storia fatta in questo modo, o perché il narratore si è immedesimato in quel personaggio bambino, bla bla bla, insomma, e quindi è come se già iniziasse un po' a raccontarsi rispetto a quel libro, e anche questo ho visto che un po' aiuta, no, nella... E la terza cosa, come si diceva, è mischiare un po', magari incontrarsi fra, cioè se voi avete una bella rete, no? Se i coordinatori ogni tanto si vedono e si scambiano idee, ma anche perplessità, dubbi, magari si riesce ad avere idee nuove e magari anche a favorire qualche scambio, perché per esempio l'idea che ogni tanto i gruppi si mischino un po', perché diciamo, cioè, i gruppi che hanno sempre gli stessi lettori e le stesse lettrici per un anno, due anni, tre anni, alla fine anche le dinamiche che si instaurano fra lettori diventano un po' faticose, insomma, come se non avesse più ossigeno il gruppo, no? Invece se arrivano persone nuove, altre se ne vanno, ma non perché ci sono state delle rotture, ma perché semplicemente mi interessa l'altro gruppo perché legge gialli. Io finalmente basta, mi sono rotto di leggere i classici del Novecento, voglio leggere gialli e vado nel gruppo che legge gialli. Quindi c'è un po' queste cose aiutano. Io credo che dopo un po', se no il gruppo lettura può anche finire, non è che. Cioè, se io credo che se dopo 4-5 riunioni un gruppo di lettura non soddisfa più chi lo coordina, le lettrici e il lettore che partecipano, può anche dire: ragazzi, siamo ancora amici, ma ci vediamo al caffè, ma il gruppo di lettura ognuno va per la propria strada, ne apriamo un altro, è molto dinamica come condizione, cioè fa parte di quel concetto di democrazia che dicevamo, è un happening, è una rappresentazione, è un flash mob, non è un circolo che sta sempre compatto e unito e siamo sempre tutti della stessa... Non so se... Sì, sì. Qui ci sono, due... c'è una signora là e... Tocca a me. Vai. Noi siamo della provincia di Verona, non siamo nella rete... ho scoperto nella biblioteca pubblica di Mussolini, insomma, il primo libro. E siccome erano un bel po' di anni che pensavo come mai gli uomini non si trovano quasi mai. leggendo un po' il libro, mi è venuta l'ispirazione, ne ho parlato con il mio amico, e abbiamo fatto partire un gruppo di lettura, così, chiedendo ad altri uomini se erano disponibili a trovarsi. Quindi solo maschile. Interessante. Alcune delle nostre donne per male erano già in gruppi di lettura femminili. Ah, okay. e siamo partiti così. Adesso è più di un anno che ci troviamo, circa ogni 15 giorni, e abbiamo letto un libro ogni 15 giorni più o meno. E piccoli però. Piccoli. Scegliamo democraticamente il titolo e ho introdotto anche il discorso della presentazione da parte di chi ha proposto. Ho praticamente una domanda principale. Io non sono niente, nel senso né bibliotecario né niente, ho un po' di passione della lettura, ma non sono un gran lettore. Un lettore. Un lettore. L'esperimento ci piace, nel senso che ci troviamo molto bene a parlare, parliamo almeno un'ora e mezza, due, dopodiché ci troviamo a fare una votazione, però da un paio di volte, ma senza dare una, cioè diamo la media del voto, ma ognuno si tiene le sue opinioni e le trascriviamo e poi mangiamo qualcosa assieme. Ci troviamo in casa privata e questo è uno degli aspetti che leggendo anche il secondo libro, insomma, è evidente che insomma, l'aspetto pubblico viene a mancare. Però ci troviamo, diciamo, un po' in difficoltà in questo. E l'altra cosa, mi trovo un po' a condurre io, anche se cerco di passare un po' la palla, però bene o male, ma non, mi sento impreparato, specialmente adesso avendo letto le tante implicazioni che ci sono nella conduzione, nella condivisione, eccetera, dico, vabbè. Però, diciamo, l'esperimento è partito. E volevo sapere se posso essere autorizzato a continuarlo come conduttore. Lo so, la domanda è un po' sciocca. No, non è sciocca, sento, diciamo che non è sciocca la domanda, è più che legittima. Diciamo che non c'è una legge sui gruppi di lettura, per fortuna, no? Per cui io quando parlo del fatto di essere pubblico, ma perché ritengo che sia più ricco il gruppo, cioè se voi invece di trovarvi in una casa privata, vi trovaste, che so, nella biblioteca, ma anche in un caffè in cui mettete la locandina, c'è cioè un gruppo di lettura, non so se volete scrivere per soli uomini. Questo non lo so. Io ci penserei. Io, esatto, però è per soli uomini. Ci penserei un attimo, però. Dai, che siamo 10 già. Sì, esatto, no, allora quello di 10 voi siete già quasi. Questa domanda pubblico, sì, è una domanda che ci stiamo facendo. Però secondo me quello è importante anche perché se arriva qualcuno di nuovo, poi è chiaro che se uno si trova in casa privata o in un circolo privato non c'è nessun male, ovviamente, è l'unica cosa che il gruppo diventa più efficace, ma anche più bello se ci sono apporti nuovi, idee nuove, modi nuovi di è quello la, e poi probabilmente anche la discussione è più, quindi è più responsabile. Io se so di essere parte di un gruppo pubblico, cerco quando parlo di stare in un luogo pubblico in cui ci siano delle regole da rispettare, ma anche nei modi di esprimermi secondo me che gli altri che devo agli altri, no? Anche di chiarezza, di lunghezza degli interventi, non siamo un gruppo di amici, è una cosa un po' diversa, poi diventiamo anche amici, per carità, ma è qualcosa di più complesso, poi magari quando ci siamo dentro non ce ne rendiamo conto, però se lo guardiamo con un po' di distanza ci rendiamo conto che, quindi io proverei a diventare pubblici, però è chiaro, c'è pericoloso, perché quando si spalge la voce che c'è questo maschietto, un'idea di gemellaggio che ricevono dai infatti. Cioè che tutti cercano di gemellarci e vogliono assolutamente poi se con loro. Però è interessante l'esperimento. È molto, infatti per me è molto interessante. Che libri, posso chiedere che libri leggete? Abbiamo letto di tutto, abbiamo letto l'ultimo Il coccodrillo di Dostoevskij. Poi abbiamo letto Brutti incontri che hanno bisogno. Sì, sì. No, abbiamo sì, dal saggio. Sì, da Bari di Parigi. Quindi vi comprate. Sì, perché non essendo con la biblioteca, o li chiedete a vostro leggo. Ve li fate arrivare dalla biblioteca. Sì, ok. Sì, mia moglie è la biblioteca. Di vostro leggo. Quindi i libri li avete. Avete un aggancio in biblioteca. No. Per la scelta del libro, posso aggiungere, sì. Abbiamo introdotto una piccola cosa che secondo me è interessante, cioè nel senso che oltre vabbè, la proposta dei libri che si prepara prima, quindi il coinvolgimento e poi la votazione di queste cose, abbiamo introdotto per, come si dice, soddisfare anche un'esigenza che è venuta fuori da un componente del gruppo, di giocarsi un jolly di un anno. Cioè uno propone un libro che per lui è importante, che gli piace, che lo sente, che gli altri accettano. E gli altri lo devono accettare. Ecco, questo è bello. Questo è bello. Sì. Chi lo vuole, lo sa fare. Chi vuole, lo può fare, si può giocare. Ma è bella cosa perché gli altri sono, diciamo così, disponibili ad accettare questo. c'era una domanda. Un altro intervento, sì. L'intervento sul tema che ha alzato il signore, che noi siamo della provincia di Verona, quindi non sentitevi soli. Ma c'è stata un'invasione. Sì, è stata un'invasione. No, volevo appunto fare una riflessione insieme a voi su questo, che mi rendo conto non solo nel nostro gruppo di lettura, ma anche quando andiamo a trovarci in due se si metta a Verona, così mi rendo conto che il pubblico è il 90% femminile, ma anche oggi insomma lo vediamo. E non riesco a capire perché nel nostro gruppo leggiamo veramente tantissimi tipi di libri, quindi non una tipologia prettamente femminile, ci sono dei romanzi storici, magari anche scritti, tema i partigiani, quindi che può interessare anche alcuni signori del nostro paese così. Però nel nostro gruppo ci sono due uomini che si alternano, tipo sto giro mai te, perché maschile non si sente invitato al gruppo di lettura. Ad esempio, volevo chiedere anche a voi due, non vi siete sentiti invitati agli altri gruppi di lettura che ci sono a Bussolego? Cioè, perché avete creato un posto e non vi siete uniti all'altro? Sarebbe bello, brevissimamente, mi sono entrato nel gruppo di lettura della biblioteca, ma nel giro di un paio di mesi erano 29 donne e io. Però questo per me non era un problema, però a parte il numero un po' elevato che mi... Tante, però chiaramente anche la scelta dei libri e tutto l'insieme era difficoltoso. E poi comunque mi frustrava questo fatto che non ci sono uomini. Quindi mia moglie fa parte di un gruppo di lettura di donne che leggono libri di donne, solo. Okay, e anche diciamo un po' sulla tematica delle donne, quindi ho tentato di entrarci, ma ecco, no, comunque c'è un po' questo problema. Ma questo qui è ogni volta che facciamo questi incontri che emerge, perché è una questione da affrontare, perché chiama in causa aspetti diversi, insomma, aspetti sociologici, del fatto che comunque in genere il pubblico di genere femminile legge di più di quello. E poi c'è la questione che le donne, cioè diciamo gli uomini, sono meno disposti a parlare di sé, e come abbiamo detto più volte, parlare seriamente di un libro, di un romanzo, di un saggio, ma soprattutto dei romanzi, dei racconti, insomma, è tanto parlare di sé, perché se non diciamo niente di noi è inutile che andiamo al gruppo di lettura. Se dobbiamo solo dire, sintetizzare la trama o dire che il libro ci è piaciuto o non ci è piaciuto, è inutile parlare di noi in un gruppo di lettura. Quindi dobbiamo parlare di noi, e gli uomini si sa che fanno più fatica a parlare e sono più performativi che diciamo sinceri nel parlare di sé. Quindi su alcuni temi queste caratteristiche si scontrano un po', e poi non so perché. Sì, è difficile dirlo, però insomma è un dato che è evidente a tutti. Non so se tu hai qualche ipotesi. Sì, se posso dire una cosa, la sorpresa grossa è stata che ci proviamo appunto a parlare per un'ora e mezza, due, di cose anche personali, con racconti di vita e cose. È stupefacente, nel senso che non è una cosa scontata, e però è possibile. Forse perché vi sentite un po' più al bar tra amici che in un gruppo, perché è chiaro che se ci sono persone di un genere diverso, soprattutto con sensibilità diverse, perché poi non è una questione di, è che se ci sono sensibilità diverse, attenzioni anche linguistiche diverse, attenzione ai personaggi diversi, dobbiamo confrontarci con un altro che è più alto del mio amico, no? E quindi è più complicato. Io ho assistito anche delle scene, adesso forse non c'è, comunque un gruppo dove c'è un uomo che a un certo punto una lettrice gli ha detto: taci tu che sei un uomo, ce lo siamo, cioè, diciamo che non favorisce. No, perché per esempio nel nel mio gruppo io ho due coppie. Ah, ecco. Ma il tuo problema è quello di marito e moglie. Perché a volte sono i maschi del gruppo sono i mariti, quindi è ancora più complicato. Io adesso dico si questa rischia di rovinare il matrimonio. Poi tu lo sai, insomma, questa coppia non... Lei ha zittito lui e lui si chiama Fermo e gli ha detto Fermo stai fermo nel gruppo di scelta. Quindi ci sono delle dinamiche matrimoniali che poi entrano in campo. Bene, c'è il tempo? Se non ci sono interventi ti facevo un'ultima domanda perché non posso, cioè è un uso personale chiaramente del ruolo pubblico. Allora, ho trovato godurioso nelle voci dei lettori, mentre ho fatto un po' fatica perché io ho avuto un vissuto mio di vita molto difficile con la filosofia, ma invece ho trovato godurioso tutta la parte dedicata alla critica letteraria, Bakhtin che hai già citato, Ginette, così. E quindi ti volevo chiedere, io ogni tanto ci provo, no? Ok, qual è il confine tra portare nel gruppo di lettura qualche voce, qualche piccolo brano, qualche cosa della critica letteraria e invece rischiare di essere troppo anche accademici? È chiaro che chiaramente un'idea dipende anche un po' dal gruppo così, però io qual è? Perché poi la critica letteraria veramente in Italia è bistrattata in una maniera incredibile. Sì, secondo me più che provare con la critica letteraria, cioè prendere la recensione di un critico importante su un certo romanzo, io lì ho citato Ginette, ma possiamo citare tantissimi di quella scuola lì, cioè quelli che mettono proprio le mani sul testo, cioè se io prendo una pagina, come abbiamo detto, di Hemingway o di Serka, insomma di un qualsiasi scrittore, e provo a smontarla per vedere per esempio se il narratore è presente o è assente, se sa tutto o sa poco o sa meno addirittura dei personaggi, se ha un obiettivo oppure guarda tutti allo stesso piano, se suscita, se suggerisce diciamo un giudizio morale su un certo personaggio oppure se si astraggo. Diciamo, questo tipo di strumentazione secondo me ti aiuta più che l'articolo di un critico che magari te lo inquadra in maniera storica, che sono tutte cose interessanti ovviamente, che però forse sono da usare non nel gruppo di lettura. Insomma, come dici tu, dipende dal tipo di gruppo, dipende dalla sensibilità, però io me la sento di provare con quel tipo di, diciamo, di strumentazione che sono un po' una cassetta degli attrezzi, esatto, che fa i conti proprio con il testo, anche perché questo aiuta in quello che dicevamo prima, cioè che ti aiuta il lettore, la lettrice ad andare proprio nel merito del testo, a evitare le sintesi, i giudizi troppo affrettati, perché se io sono, come dire, quasi obbligato in questa discussione su quel certo autore a cimentarmi con una pagina precisa in cui c'è un dialogo fra due personaggi e io lì cito quello celeberrimo di Colline come elefanti bianchi, in cui non si capisce queste colline perché lei gli dice ma non ti piace, cioè tu hai mai visto gli elefanti bianchi? Io no, non li ho visti, ma perché non potresti averli visti? Io gli dico ma perché non potrei averli visti? Ed è un dialogo che oggettivamente si capisce poco, va letto 3, 4, 5, 6 volte. Però se noi prendiamo, allora, cosa sa il narratore di questi due personaggi? Sembra di capire tra quello che dicono che lei dovrebbe fare un aborto. Però secondo te il narratore da che parte sta? Ecco, questo tipo di approccio secondo me ci aiuta molto di più che qualcuno che mi dica che Hemingway ha rappresentato la migliore scrittura del racconto breve dell'inizio della prima parte del Novecento, perché è un'informazione importante questa, però in quel momento lì nella discussione mi serve meno. Insomma, qualcosa che mi faccia mettere le mani sul testo, ma come dicevamo prima, non necessariamente dal punto di vista tecnico, come l'esempio che ho fatto io, ma anche dal punto di vista morale. può essere o emotivo, sì, no? E secondo me anche l'altra cosa che tu hai detto della cassetta degli attrezzi, cioè non è una cassetta degli attrezzi assoluta, cioè secondo me il gruppo può essere legittimamente anche improntato dal suo conduttore, dalla sua conduttrice. Certo, non è che c'è una regola. Esatto, cioè, perché a volte alcuni mi dicono, ma sai, quando vieni tu è un'altra cosa, sì, ma non perché tu non vai bene, io sono un'altra cosa e tu sei un'altra cosa ancora, ma ognuno ha le sue letture, il suo vissuto, che ben venga, che secondo me che stimoli in maniera diversa, assolutamente. Io la cosa che secondo me bisogna prendere di questi suggerimenti è proprio il fatto di trovare dei modi per avvicinare il più possibile la discussione al merito del testo, perché poi è da lì dove si dirama anche tutto l'aspetto emotivo del vissuto personale del lettore. Più stiamo lontani dal testo, più siamo generici, quindi saremo anche banali o saremo anche troppo sintetici. Invece più ci avviciniamo al testo, più siamo obbligati ad ascoltare quello che c'è nel testo, siamo obbligati ad ascoltare chi, gli altri lettori che parlano di quella sì, pagina lì. Io a volte propongo proprio questa idea: invece di discutere di tutto il libro, discutiamo di tre pagine di quel libro, come se fosse davvero una parte per il tutto, che però ci allena a stare sul testo, sulle parole, singole parole scelte, perché sappiamo bene, no? Una parola vale una cosa, un'altra parola ne vale un'altra, e se ci abituiamo a farlo, e anche quando discutiamo, probabilmente ne guadagniamo, perché non significa che ogni volta bisogna ripetere questo laboratorio. Dipende anche dal libro. Infatti una scelta può essere che invece di leggere un romanzo di 400 pagine, per la prossima volta leggiamo un racconto. E poi leggiamo, che so, La Metamorfosi di Kafka e parliamo di quella. Perché lì ci sono strati e strati di, possiamo guardarlo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle relazioni familiari fra, perché la sorella lo tratta in un certo modo fino a un certo punto e poi decide invece di trattare in un altro modo, e lì le discussioni possibili sono tantissime, però siamo obbligati dal fatto che è corto a starci addosso al testo, no? Sì. Bene, cioè tante più domande che risposte, ma questo tanto sapevamo, però anche la richiesta del gruppo, certo, assolutamente. Sono più le domande, esatto, è questo. No, volevo ringraziare Elsa, volevo ringraziare voi, davvero questa grande partecipazione. Grazie a Luigi Galazzi, veramente. Ci sono anche i libri, se qualcuno si vuole più avvicinare, ancora qualche minuto, dopo lo portiamo a casa. Io ho fatto degli esperimenti in classe, con un gruppo classe, un gruppo di lettura. Che è ancora più difficile. Sì.